GR Sport. Buongiorno a tutti da Carlo Genta. Presentata ieri al Lingotto di Torino la nuova casa dei tifosi bianconeri. È un impianto da 40.200 posti, sarà pronto nel 2011. Ci saranno oltre 4.000 posteggi, 8 aree di ristorazione, 24 bar, 459 posti stampa, 84 skybox e 34.000 metri quadri di aree commerciali. Il presidente juventino Cobolli Gigli ha espresso tutta la soddisfazione possibile, ma ovviamente il pensiero va al futuro che c'è dietro il prossimo angolo, cioè la partita di domani sera con l'Inter. Nessun rimpianto per Ibrahimovic, dice Cobolli Gigli al nostro inviato Dario Ricci. Rimpianti pochi, perché io nella mia storia di tifoso ho visto poco insieme Del Piero e Ibrahimovic. Vedevo Ibrahimovic e mi domandavo, ma Del Piero dov'è? E infatti ho già avuto modo di esprimere un concetto molto semplice che è nella mia testa. Chiaro, ci dispiace molto che Ibrahimovic sia andato via perché abbia voluto andare via, però secondo me il fatto che sia andato via Ibrahimovic ha risolto il problema Del Piero, e da quando è andato via Ibrahimovic Del Piero ha vinto 2 trofei come miglior capocannoniere in Serie B e in Serie A, e quest'anno sta facendo vedere quello che è. Sa fare, e quindi è come se si fosse stappato un tappo da una bottiglia, nel senso Del Piero adesso ha ampio spazio di far vedere quello che è in casa sua e Ibrahimovic è andato in un'altra casa. Sul fronte Inter Adriano fa sentire la sua voce al ritorno dal Brasile e chiede al club chiarezza sul suo futuro. C'è stato un problema con Mourinho, ha detto l'attaccante, e lui ha deciso di allontanarmi per queste 4 partite. Ma sabato sono di ritorno a giocare in campionato. Spero di dare continuità nell'Inter. Se non sarà là, sarà in un'altra squadra, dice Adriano. Mi auguro che l'Inter definisca il mio futuro. Anche l'altro anticipo di domani è una gara di grande interesse. Fiorentino-Udinese con il ritorno di Adrian Mutu dopo l'infortunio. Sentiamolo. Sto allenando con la squadra normalmente. Però vorrei discutere poco di questo, perché no, anche perché è l'ultima volta che ho detto sto bene, dopo tre partite mi sono infortunato di nuovo, quindi non vorrei gufarmi da solo, perché vorrei giocare sempre, vorrei sempre essere d'aiuto alla mia squadra, il protagonista. Niente soldi, non si gioca. Il Pescara, prima divisione girone B, non giocherà domenica prossima contro la Juve Stabia in segno di protesta per il mancato pagamento degli stipendi. E se la situazione non sarà risolta, continuerà a non giocare partite ufficiali e diserterà anche gli allenamenti. Lo ha deciso tutto lo staff della prima squadra. Lasciamo ora il calcio, perché c'è un Valentino Rossi felice, quello che ha parlato al termine della giornata di test al Mugello alla guida della Ferrari. C'era in me il potenziale per diventare un buon pilota di Formula 1, dice Valentino Rossi. Lo avevamo visto analizzando i tempi che avevamo fatto a Fiorano, qui e a Valencia, e quindi con un buon progetto di lavoro e con tanto impegno sarei potuto diventare un buon pilota di Formula 1. È dura dire se sarei diventato vincente o meno, ma il potenziale c'era e c'è, dice Rossi. Infine comincia oggi a Mar del Plata la 3 giorni della finale di Coppa Davis tra Argentina e Spagna, padroni di casa favoriti che schierano in singolare Nalbandian e Del Potro, mentre gli iberici, privi di Nadal, rispondono con Ferrer e Lopez. È tutto per GR Sport di questa mattina, di nuovo buona giornata.